Storie italiane. I due viaggiatori. Un tempo, un sarto e un calzolaio decisero di lasciare i loro piccoli villaggi e avventurarsi in città per trovare una fortuna migliore. Come vedrete, i due erano abbastanza differenti l'un dall'altro. La smetti con quel rumore atroce? Come se queste bestie non fossero abbastanza. Calmati, fratello. Essere allegri e cantare renderà il nostro viaggio più breve. Le canzoni non rendono il viaggio più breve, lo rendono solo più fastidioso. Sei solo stanco. Ecco, bevi un po' d'acqua, ti farà sentire meglio. L'acqua non è affatto fredda. Orribile. E dopo un giorno di cammino raggiunsero una piccola città nella quale decisero di tentare la fortuna. Poiché il sarto era vivace e amichevole, la gente si affollava presso di lui, mentre il calzolaio era scontroso e seccato e non attirava quasi nessun cliente. Ecco, cucimi una maglietta con questo. Signore, ah, colori raffinati! Una camicia di questo colore ti starà benissimo. Sei un uomo di gusto. Grazie. Pensi che potrà essere pronta entro domani? Oh, certo, signore. Sarà pronta entro domani. Ti calzerà davvero a pennello. Ho anche bisogno di nuove scarpe. Potresti prepararmele per domani? Con piedi brutti e informi come quelli, mi ci vorrà tutta la notte per avere le scarpe pronte entro domani. Non si preoccupi, signora, il suo vestito sarà pronto tra due giorni. Questo è il pizzo più bello che abbia mai visto. Oh, sei un uomo delizioso. Ecco un anticipo. Le monete tintinnavano nella borsetta del sarto, mentre quasi nessuno andava dal calzolaio. Il calzolaio lo vide e divenne geloso del sarto. Presto fu tempo di lasciare la città. Forza, amico! È ora di partire! Sì, va bene per te che sei stato fortunato. Ma, ahimè, la mia sventura mi segue ovunque io vada! Ah, le fortune vanno e vengono, amico mio. Forse troverai fortuna migliore nella prossima città. Comprerò il nostro pane e altro cibo per la strada. Vieni. Intendiamoci, dovremmo portare cibo per 7 giorni. No, la prossima città è raggiungibile in 2 giorni. C'è una scorciatoia di cui ho sentito parlare. E se non trovassimo la scorciatoia? Dovremmo prendere il percorso più lungo, anche se ci vorranno 7 giorni. Bene, ho scelto di credere nel meglio. Quindi porteremo pane per 7 giorni per te e pane per 2 giorni per me. Quindi il sarto generosamente pagò anche per il calzolaio. Ed insieme partirono per la città successiva. Camminarono a lungo e scoprirono di aver mancato la scorciatoia. Ora avrebbero dovuto percorrere la strada lunga per la città. Dato che il sarto aveva portato il pane a sufficienza solo per 2 giorni, il suo cibo era ormai finito. Ah, quello era l'ultimo pezzo del mio pane. Oh, ti avevo detto che ci sarebbe potuti perdere, ma tu non ascolti nessuno, vero? La foresta si prenderà cura di noi, fratello. Vieni, dobbiamo riprendere a camminare. Continuarono a camminare per altri 2 giorni e in quei 2 giorni il calzolaio mangiò con gusto, mentre il sarto non aveva nulla. Il sarto divenne stanco e affamato. Il 3° giorno non ce la fece più e chiese al calzolaio: «Fratello, per favore, potresti condividere un po' del tuo pane con me? Ho tanta fame! Non mangio un boccone da 2 giorni! E tu hai un sacco pieno di pane!» «Condividerlo con te? Così viene fame anche a me? Avresti dovuto prendere il tuo pane quando ne avevi l'occasione!» «Fratello, morirò di fame se non mi darai il pane! Ho condiviso la mia ricchezza con te! Non puoi condividere solo alcuni morsi con me?» Oh, quindi pensi di essere più ricco di me, vero? Solo perché sei stato fortunato? Bene, allora dammi tutta la tua ricchezza e potrai avere un po' del mio pane. Che cosa? Ho comprato io quel pane! E quindi perché non compri ancora un po' in quella foresta? Bene. Un affare è un affare. Ecco qui, prendi questo. Questo è troppo poco! Così o niente. Bene. La quantità di pane che il calzolaio diede al sarto era troppo piccola per soddisfare anche la fame di un uccellino. Quindi il sarto patì la fame, delirò e divenne debole e stanco. Quel pomeriggio si sentì girare la testa e crollò a terra. Il calzolaio, egoista e crudele, semplicemente proseguì verso la città. Dopo alcune ore, il sarto riprese conoscenza e sentì parlare due uccellini. Abbiamo visto cosa ti ha fatto il cattivo calzolaio, amico. Ma la vita aiuta sempre i gentili e i generosi. Mangia questa mela e tutta la tua stanchezza svanirà. E poi procedi verso est. Questa è la strada per la grande città. Per arrivarci impiegherai ancora 2 giorni. Grazie, grazie mille. La stanchezza del sarto scomparve con il primo morso della mela. E presto arrivò in città. Ma presto gli venne di nuovo fame. Anche se aveva mangiato la mela, gli umani hanno bisogno di più di quello per sopravvivere. Ma la mela lo aveva reso forte. Vide delle anatre in uno stagno. Ne prese una. Sono così affamato, anatra. Mi dispiace, ma devo cucinarti. Oh, per favore, risparmia la mia vita. Ho dei figli, una famiglia. Se mi cucini la tua fame, sarà soddisfatta. Ma solo per alcune ore. I miei figli, invece, perderanno la loro madre. Oh, per quanto possa essere affamato, non posso causare così tanto dolore. Va bene, piccola, ti lascerò andare. Grazie, umano. Prometto che ti restituirò la tua gentilezza e ti aiuterò quando verrà il momento. Questo è un nobile pensiero. Grazie. Quindi il sarto, ancora affamato, continuò a camminare e arrivò ad un nido d'api. Ah, posso prendere del miele. Questo dovrebbe soddisfare un po' la mia fame. Oh, per favore non rompere la nostra casa. Ci è voluto tanto tempo per costruirla. Sono molto affamato. Ho bisogno di mangiare. Il nostro miele soddisferà la tua fame per qualche ora. Ma a noi serviranno 7 settimane per ricostruire il nostro alveare. Bene, lascerò stare la tua casa. Grazie, umano. Prometto che ti restituirò la tua gentilezza e ti aiuterò quando verrà il momento. Questo è un nobile pensiero. Grazie. Quindi, il sarto continuò a camminare e raggiunse la grande città. Ricamò alcuni fazzoletti per la moglie di un mercante e fu pagato bene. Così poté nutrirsi e aprire un negozio in città. Presto, la sua natura vivace e buona attirò molti clienti e divenne il sarto più popolare della città. In effetti, divenne così popolare che venne nominato sarto reale. Ma la vita può fare a volte bizzarri scherzi e proprio come il sarto era stato nominato sarto reale, anche il calzolaio era diventato il calzolaio reale e come sempre era geloso del sarto. Ah, è un abito così squisito, mio sarto. Perché non mi fai nuove scarpe da abbinare alla raffinata maestria del sarto? Come desidera vostra altezza. Intendiamoci, le scarpe devono essere grandiose come la veste. Lo saranno, sire. Il calzolaio stava diventando sempre più geloso del sarto. perché il re sembrava favorire maggiormente il sarto. Quindi elaborò un piano per sbarazzarsi del sarto. Vostra Altezza, le cuciture del sarto vanno davvero bene. Ma temo che tutti i suoi complimenti non gli facciano molto bene. Cosa intendi? Il sarto ha iniziato a vantarsi un po' troppo. Di lei e del palazzo anche. Veramente? Che cosa ha detto? Ricorda l'antica corona che suo nonno aveva perso nella foresta? Oh, sì! Quella corona era straordinaria! E vorrei poterla trovare e riportarla indietro! Bene! Ho sentito il sarto vantarsi l'altro giorno che avrebbe riportato la corona entro 24 ore! E così? Oserebbe vantarsi di un cimelio reale? Chiamalo subito! Sì, Vostra Altezza! Ho sentito che affermi di poter riportare indietro la nostra antica corona perduta? Vostra Altezza, io non ho... Sei un bravo sarto e non credo che ti vanteresti inutilmente. Quindi sono disposto a darti una possibilità. Portami la corona nelle prossime 24 ore. E se non ce la farai, dovrai lasciare questa città per sempre. Ma... Hai solo 24 ore! Il sarto sapeva che questo era un compito impossibile. Non sapeva nemmeno che aspetto avesse la corona. Tristemente, radunò le sue cose e lasciò la città. Dovette viaggiare di nuovo attraverso la foresta per raggiungere la città successiva. Arrivò allo stagno dove aveva incontrato le anatre e si sedette lì. Ehi, umano! Come stai? Ah, amica mia. Bene, la mia fortuna è mutata ancora una volta e ho dovuto lasciare la città. Perché? Cosa è successo? Il sarto raccontò tutto all'anatra. La corona reale? Beh, è stata sul fondo di questo stagno per decenni. Il nonno del re si era fermato qui per bere un bicchiere d'acqua, lasciando cadere accidentalmente la corona. Puoi portarla su per me? Certamente. Quindi l'intera famiglia dell'anatra si tuffò sott'acqua. E tirò su la corona reale. Il sarto ringraziò l'anatra. E tornò di corsa al palazzo. Il re era molto contento e il calzolaio ancora più geloso. Presto pensò ad un altro piano per liberarsi del sarto. Ha trovato la corona, è vero, ma da allora il sarto si vanta ancora di più. Perché? Cosa dice adesso? Dice che non è solo un sarto, ma anche uno scultore. Può fare una scultura di cera di questo intero palazzo, di ogni stanza, di ogni pilastro, di ogni chiodo, proprio come il vero palazzo. E può farla in 24 ore. Bene, il sarto è un uomo dai molti talenti, vero? Chiamalo subito! Sì, Vostra Altezza. Quindi puoi fare un modello esatto del nostro grande palazzo, vero? Vostra Altezza, non ho... Bene, allora hai 24 ore, al termine delle quali dovrai avere il modello pronto e se mancherà anche solo un chiodo o un vetro delle finestre, dovrai lasciare la mia città per sempre. Sì, Vostra Altezza. Il sarto pensava che questa volta non avrebbe ricevuto alcun aiuto. Fece le valigie e lasciò la città. Iniziò a camminare nella foresta quando sentì una voce. Ciao, umano! Perché hai un'aria così triste? Il sarto si voltò e vide che svolazzava attorno a lui l'ape regina. Il sarto le disse tutto sul modello di cera. Solo questo? Vai a casa, umano! Vai a casa e riposa. Io e le mie api avremo il modello pronto in pochissimo tempo. Quindi il sarto tornò a casa e le api volarono nel palazzo, dando una buona occhiata ad ogni finestra, ogni pilastro e chiodo in esso e al mattino ne costruirono una replica esatta e la consegnarono al sarto. Il sarto la presentò al re. «Cielo, è bellissimo! Ben fatto, sarto! Che cosa hai da dire a questo punto, amico mio? Dici ancora che il sarto si vanta con arroganza?» «Mi dispiace, vostra altezza.» «Bene, mi chiedevo che genere di uomo potesse essere in grado di parlare male di un altro alle sue spalle. Sei geloso del sarto ed è per questo che l'hai lasciato morire di fame nella foresta.» «Vostra altezza, lo sapete?» «Sono il re ed è affar mio sapere tutto. Ho seguito il sarto e le creature della foresta mi hanno raccontato tutto. È vero, la vita restituisce il bene e restituisce anche il male. Sei un calzolaio cattivo ed egoista. Non hai posto nel mio regno o nel mio palazzo.» «Vostra altezza!» «Non può perdonarlo, sire?» «L'ho perdonato ed è per questo che non l'ho messo in prigione per aver tentato di farti morire di fame. Ma non rimarrà nel mio regno. Vattene entro un'ora e tu, sarto, sono orgoglioso di avere un cittadino come te nel mio regno e rimarrai qui con tutte le comodità e il lusso fino alla fine dei tuoi giorni.» Quindi, grazie al bene che aveva fatto, il sarto visse con felicità e rispetto per il resto della sua vita, e per il male che aveva fatto, il calzolaio dovette lasciare la città.